le dico una cosa. Lei dice la Gabbanelli, chi vede la Gabbanelli, quando è il programma della Gabbanelli, che non lo vedo mai, domenica sera, sera è malato, lei dice è malato, bisogna... Ma la prego, con queste inchieste che il più delle volte non sfociano in nulla, io ho messo 5 minuti perché è consigliato da un amico rigorosamente e che ha fatto? Di sinistra, che ha fatto? Ha detto guardalo sto programma qua, che, come ha reagito? E l'ho visto una volta 5 minuti e mi sono abbassati, e cioè? Si è addormentato, che ha fatto? Ho cambiato canale. Non si è addormentato, no? No, mi arrabbio davanti a quelle cose. Ma anche ho visto 3 minuti si arrabbia, di lavoro, che si arrabbia. Cioè è impossibile seguirli. Ma lei si arrabbia. No, non mi arrabbio, non vuole vedere il marcio di questo paese. Lei non vuole vedere il marcio. Ecco, è arrivato quest'altro. Ma non è il marcio, lo vedete voi. Il marcio di questo paese. Chiedo scusa, un attimo. La TV è verità. Sì, no, stavo solo telefonando, signor. Scusi. Poi pensavo... Luigi, che sta facendo? Che scusi. Succede? Che succede? Mi ha fermato la polizia, sono fermo col telefonino. Scusi, mi passi un attimo la polizia. Ci passi la polizia un attimo. Sto parlando al telefono. Io sì. Sto parlando, scusi. Sì. Non c'è nulla, signora. No? Allora, ma non c'è nulla, se uno telefona mentre vai in macchina. Stavo telefonando, pensavo che la telefonata finisse e sono partito. Io invece... andavo in macchina intanto, però. La legalità, amico mio, la legalità. Portatelo via. Scusi, dica che sta parlando con noi un attimo urgentemente. Mi passi un attimo. Mi passi le forze dell'ordine un secondo. La difendo io. Sono andati via? No, sono qui. Ce li passi, ci pensiamo noi ora. Ci pensiamo noi. Dai. Scusi un attimo, signor Luigi, mi passa un attimo il poliziotto che gli spiego io così magari la salvo? Tenga, no, sto parlando con la zanzara di Radio 24. Scusi, non mi interessa. Appena... Io sono partito. Scusi, signor poliziotto, signor vigile. Signor vigile. Che cos'è, signor Luigi? È un vigile o un poliziotto? Vuole parlare con Cruciani della zanzara? Ma è un poliziotto o un vigile? È un poliziotto o una poliziotta? Me la passi un secondo? L'avvocato Parenzo. Gli passi, ci penso io ora. Non vuole parlare. Che non c'è niente di male. Ma niente, mi dia i documenti che devo andare. Luigi, accenda la radio un attimo, accenda la radio, alzi la radio della macchina. No, ma vogliono i documenti. No, un attimo. Faccia sentire la radio. Mi faccia sentire la radio un attimo. Lo so. Guardi che non vuole parlarle. No. Signora poliziotta? La signora poliziotta non le vuole... No, ma non vogliamo intralciare un'operazione di polizia, cioè... Mi fanno una multona. Ero fermo, eh. Era fermo, lo vogliamo siamo testimoni, era fermo, siamo testimoni. No, ero fermissimo.